finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Eccoci qua, ci stiamo, eccoci. 22:51 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Did you get your disconnection? 87.9 della banda romana e laziale. Salutiamo Elettrodo e le sue prove tecniche di trasmissione. Inizia questa sera una lunga serie di trasmissioni con non ordinarie, chiamiamole così, non straordinarie ma nemmeno ordinarie. Questa sera con, come diciamo spesso con B-Max, un vecchio compagno, e lui si incazza moltissimo per questa definizione della radio. Mi dice: vecchio, ci sarai. Poi si proseguirà mercoledì prossimo con ovviamente 15 di febbraio con Caronte, Torpedos, Skinhead vari da Roma e dintorni. Per ricordare sempre Roberto il Patata, scomparso appunto ormai 15 anni fa, il 15 di febbraio. Poi si proseguirà il 22 appunto con Big Max e Spider, quindi con una nuova puntata Blues Power più 25 O'Clock BB King parte 4. Poi vedremo il primo di marzo, vedete, già tutto programmato il primo di marzo, o con l'altro ospite che non vi voglio dire perché non ci siamo riusciti per tutto il mese di gennaio, oppure con un live set, adesso andremo a definire meglio, insomma. Detto questo, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa al 1977, libera nell'etere, radio che vive di autogestione, che quindi ha bisogno del contributo di tutte e tutti e tutte voi all'ascolto, contributo in termini, tutti i termini logistici, idee, di contributo di idee, nonché ovviamente quello economico. www.ondarossa.info, la pagina del sito della radio, andando su Sostieni troverete una paginetta intera con tutte le modalità per sostenere la radio. (Musica) 6180 40 01 è il numero del conto corrente postale. Ente Stara Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via De Volsci 56 00185 Roma San Lollo. E vi abbiamo detto anche l'indirizzo dove siamo, perciò se volete passare qui negli studi di Radio Onda Rossa fatelo tranquillamente. 06491750 recapito telefonico, nonché ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione della radio per inviarci le vostre comunicacioni. 25 o'clock 25 o'clock@ondarossa.info, l'indirizzo email per insultare il sottoscritto. approfittiamo anche per ringraziare tutte e tutti coloro e quelle che sono venute sabato scorso in quel del Forte Prenestino. Già l'abbiamo fatto in qualche misura ieri sera. Un'altra di quelle serate memorabili che la radio sta collezionando negli anni e soprattutto in questo anno del 40° anniversario. E noi questa sera, insomma, anche grazie all'aiuto di colui che si alternerà con noi al microfono e al mixer, faremo una selezione un po' sudaticcia. Credo. E quindi partiamo in questa maniera. Hold on, baby. io ne approfitto, eh. 79 della modulazione di frequenza, FM, che dir si voglia. Entro così con Etta James. Mello fellow. Ti rende delle belle. I just can't. Naturalmente il ringraziamento va a professor Fefo, la sua 25esima ora, per questa occasione. Come un tempo di nuovo, con la possibilità di manovrare i cursori, parlare a un microfono ed ascoltare buona musica, speriamo. Mustangs of a plenty, telephones, record players in them, who knows how many. Diamond rings, watches, alpaca sweaters, they got alligator shoes and coats made out of leather. That's why I can't. Yeah, I don't know when I won't. Oh, oh, I can't. Siamo partiti da molto lontano. These mellow fellas come to take you out. Da quella fine degli anni 50, inizi 60, periodo, dicevamo, nel quale il rhythm and blues conosceva la sua nascita, la sua commercializzazione anche nelle chart, le classifiche per soli neri, di sola musica nera. Stand up, straight and tall. In piedi, fiero e alto. Anzi, in questo caso, fiera e alta. Che si tratta di Jackie Chan. sì, mi sembra di sì, mi sembra che ritorno. Allora, sì, sì, mi si sente, perfetto. No, devo pure alzare un po' la musica. Vai un po', proviamo sto microfono. E allora, con sì, le migliori ci tradizioni. Ci siamo, con i problemi tecnici. Mi trovo a casa, sì, sì, quindi perfetto. Ti ritorna pure in cuffia, sì. Mi ritorna addirittura nella cuffia. Ma allora ritorna qua al mixer, che sei stato fenomenale. Quanti anni era che non... quanta ruggine c'è stata? Vogliamo dire 10? Una decina, sì. Eppure sì, invece niente, come non sentirli proprio. Mani certo sul mixer, ovviamente ogni tanto uno sbaglia il cursore, ma quello lo facciamo tutti, anche chi trasmette tutte le settimane, chiaro, quindi chiaro, non c'è problema. Quindi ritorna di qua e... Ma forse è meglio che stai tu di là. No, assolutamente. Ma non vorrei... Non mi ma non mi permettere. Ma non faccia complimenti. E vabbè, insomma, una voce di quelle che non sentivate da una decina d'anni, ma per chi invece la radio, e sono tanti e tante, la ascoltano da tanti tanti anni, spero che sia un gradito, graditissimo ritorno, anche perché appunto poi sì, la Schiena del Sol, insomma sì, ci stanno delle trasmissioni energiche e piene di sole e di forza, però insomma alle volte di queste sonorità abbiamo bisogno e per cui ci prestiamo. Va bene, io almeno personalmente ne ho sempre molto, molto bisogno. E come detto prima, se siete riusciti a sentire tra un problema di corso dell'altro, appunto le mani un po' arrugginite, e un po' un viaggio all'interno della musica nera. Quando abbiamo operato questa trasmissione con il professor Fefo, una settimana fa, insomma, al telefono ci siamo detti due cose. Ci siamo detti che magari l'avevamo ideata un po' in bianco e nera, lui un po' più di musica bianca, io un po' più di musica nera, ma comunque, ma così deve essere, poi tra l'altro. Infatti, così deve essere, proprio perché appunto poi pensiamo che non è che ci sia il colore, anzi era quello che diciamo proprio ieri sera: quanto più si mischiano le cose, tanto più viene invece una cosa figa e piena proprio di significati ed energia. Assolutamente sì, e quindi niente, speriamo che sia godibile e vi lasciamo alle sonorità. Non so cosa sta andando adesso. No, era quello che c'era prima. Allora, dato che ci siamo, così passiamo all'Africa quella vera, quella della fine degli anni 60, e lo facciamo così, con anche così, ringraziando e ricordando chi ci ha attaccato comunque la malattia, il mal d'Africa, cioè la buona Radio Africa, che ha trasmesso fino a pochissimo tempo fa, fino alla fine del 2016, qui in radio il sabato pomeriggio, Fela Rasmoncuti, dai. We'll be right back. tanto per rimanere in Africa, Kei Kobayashi, i Jazz Began in Africa, appunto. Sarete accorti, non si tratta di selezioni omogenee né dal punto di vista temporale né propriamente musicale, ma come diceva giustamente il professor Fevo qui davanti a me, l'importante è l'atmosfera, l'importante è il groove, come direbbero quelli bravi. Se saremo troppo disarmonici ce lo farete sapere al 491750, che vedo silente. Comunque ancora funky, magari un pochino più moderno di Fela Kuti, ma ampiamente significativo da questo punto di vista per quanto riguarda il continente nero, da sempre crocevia di stili. Di nuovo ennesimo cambio. Welcome at the club. Benvenuti al club. Da parte di Lee Shot Williams. Atmosfera un pochino più notturno. You're welcome to the club. We got a deck of cards. Just a walk around. Come again, come nelle migliori occasioni, ma non perché qualcuno abbia timbrato, perché ci andava tutti i siti. Let your tears fall down. Everybody knows you have lost your love. Just come on in now, baby. You're welcome to the club. We got a deck of cards. Proprio non gli piaceva. Si trattava di Larry Davis. It's been hard many, so many times. Sarà dura tante volte. Oh, I just can't go on living. So what am I to do? Thank you. don't want much. Mentre il professor Fefo combatte col microfono tipo piovra, proviamo a rendergli un pochino più agevole il lavoro con Teeny Tops. Già salito beat, solo un altro pezzettino, dai professor Fefo, solo un altro pezzettino e ce la fai. Bisogno di presentazioni. The Original, Gloria Jones, Tent in Love. Run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I was not right, for I toss and turn and can't sleep at night. It's Call. Break it up. Why don't we break it? You don't even know I'm here. Why don't we break it? We both know the time. Mentre ce l'abbiamo quasi fatta, trattava di un guasto tecnico, ma un guasto mentale nostro. Chiediamo venia, scusa. Scadono le 23:32. Sì, adesso ci sono, ma che volete? D'altronde ci stanno due signori di mezza età negli studi della radio. Alla fine questa è la dura realtà e quindi niente, ci incartiamo facilmente. La mezza età comunque significa, bisogna vedere da dove parti, cioè. Sì, sì, mezza. Mezza di che? Qualcuno che ha a che fare sempre con Julie Driscoll, si tratta infatti di Brian Auger and the Trinity, il gruppo di Julie Driscoll. Il pezzo è per chi segue, per chi è amante del genere Black Cat, che era anche il titolo di una trasmissione che andava in onda da queste frequenze tanti anni fa. Evil ice cream. di tono decisamente repentino. Black Right Mandingo. Che pian pianino mettiamo a posto le cose come devono stare. Rhythm of Life, Black Right. Le atmosfere ricordano quelle della vecchia Next Time, invece, quando permaniamo. Su storie che vengono dal vecchio rhythm and blues, ma che diventano molto psichedeliche. Loro amavano poi trasformare in questa forma, fare delle version dei classici, si chiamano Vanilla Fudge. ancora anche qui le tastiere fanno da padrona. Yeah. my woman. Say it, man. Get it, baby. Dopo le atmosfere più nebulose, true, e Vanilla Fudge si risale su di tono. E questi sono i suoni di Motown. E ne parlavamo proprio poc'anzi, no? Di come già negli anni, sì, vai, ci dovresti essere, già negli anni, alla fine degli anni 60, Motown presentava degli apparecchi di registrazione, degli studi piuttosto all'avanguardia per l'epoca. Sì, si faceva il paragone con i brani prima provenienti dall'Africa, da Ferragutti, incisi diciamo non propriamente con dei mezzi sofisticatissimi, nello stesso periodo intanto la Motown già da tempo aveva messo a punto studi di registrazione ben più sopraffini. Sì, poi insomma è chiaro che all'ascolto attuale magari sentire completamente ad esempio una voce o uno strumento su uno dei due canali stereo, cosa che non viene per Radio Onda Rossa perché ancora l'era della stereofonia per noi almeno nell'etere è in qua da venire, però insomma fa un po' effetto, però i suoni sono estremamente puliti, tant'è vero che oggi ancora c'è chi cerca di riprodurre proprio quelle timbriche, quel velluto particolare che veniva proprio prodotto negli studi della Motown. Sì, insomma, d'altronde ecco, poi per chi fa radio artigianale, diciamo, artigiani della radio come noi, che di appunto strumentazioni sofisticate non ne hanno mai provate, o quando le hanno provate purtroppo le hanno sfondate in 3 minuti, perché comunque la radio appunto è un porto di mare per questo, e quindi alla fine dobbiamo mettere delle cose molto resistenti proprio a livello di apparecchiatura tecnica e durature piuttosto che sofisticate. Ecco, è un po' un gioco anche di memoria verso noi stessi, insomma, di quando la radio veramente si faceva in maniera artigianale, di quando dovevamo mettere il giornale radio e le corrispondenze del giornale radio con la cassetta, o ad esempio della facilità adesso con cui poi si possono fare anche le trasmissioni redazionali la mattina, mentre all'epoca dovevi venire fornito del tuo cofanetto di dischi, perché poi in realtà era quello che ti faceva la base durante la mattinata. Sì, no? C'erano dischi, anche qui ce n'erano parecchi e alcuni anche molto molto rari in vinile, molto bene, spero sì, che siano ancora in circolazione, in giro. Sì, sì, sì. E a questo proposito, per esempio, ricordavo proprio oggi mentre mi preparavo due cose per venire alla trasmissione, di un disco di The Genius, Ray Charles, di The Say, una versione quasi originale forse, qualcosa che non che all'epoca ero bambino, non ne supponevo l'esistenza, ma mi colpì subito. Poi insomma la passione per la musica nera era quella, quindi il rhythm and blues già all'epoca faceva i suoi danni. E il bello di avere appunto dei dischi, delle collezioni già preparate è proprio quello, che comunque dopo una traccia ne va un'altra. L'unico problema è che ormai siamo ciecati totalmente, quindi per leggere le tracce, oppure come diceva sempre il buon Bim Max, metti tracce, metti dischi col titolo facile, perché così viene molto meglio per radio. Una delle caratteristiche con cui vengono selezionate le scalette, lo vogliamo dire. Vabbè, Junior Walker, I'm That The Truth, abbiamo ascoltato. Adesso passiamo a uno dei tanti reverendi praticamente che guarnivano, fiorivano nella musica nera, Bill Preston, Billy's Bag. Eccolo qua. Senti, ma perché si chiama 25esima ora? Io ho questa curiosità. Vabbè, no, la cosa nacque perché appunto finì il Next Time essenzialmente. E 25 O'Clock è in realtà il titolo di un disco, di un brano, dei Duke of Stratosphere, che era molto gradito a Roberto Arcaronte, che così nacque la cosa di 25 O'Clock. In realtà poi dopo, con il passare delle settimane, dei mesi e poi degli anni, stiamo a 15 quest'anno, è diventato l'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione. Cioè c'è una 25esima ora che scocca fra 4 minuti, fra 6 minuti esatti, 5 minuti esatti, e in quel momento, o già comunque a partire dalle 10 e mezza, comunque in tutta questa fase temporale, noi sfuggiamo da quello che è il mondo che ci opprime, che è proprio quel meccanismo infernale di produzione e consumo in posti che non vorremmo vivere, ma che ci troviamo a vivere. Ottima spiegazione, anche perché la 25esima ora, a questo proposito, è un bellissimo film, almeno uno di quelli che amo di più. Qualche anno fa, Spike Lee, se non vado errato, la storia di un uomo che nella sua vita faceva il grande spacciatore, viene pizzicato, come si può dire, dalla polizia e deve andare a costituirsi. È la storia di questa notte che precede la sua costituzione al commissariato, insomma, si svolge a New York. È una panoramica bellissima su New York, sulla composizione sociale, etnica, come volete, insomma. E, appunto, è la 25esima ora, come ha detto il professor Fevo prima, quell'ora, quel tempo che non esiste, che bisogna inventarselo, infatti il film finisce che lui sta andando a costituirsi, ma non si sa se si costituirà o meno, se prenderà un'altra strada. Comunque, certo, vedi la figata del trasmettere negli anni dopo 2000, in 30 secondi Wikipedia, 25esima ora, film del 2002, diretto da Spike Lee, e è tratto dal romanzo omonimo scritto da David Benioff. That's right. Vedi? Veniamo in tempi relativamente più recenti. Non so se gradisci te questi due ragazzotti bianchi, no, che proprio dalla Motown hanno imparato tanto, tanto, tanto. Patrick Carney, Dan Auerbach, in arte The Black Keys, hanno fatto un sacco di soldi a fare pubblicità, eccetera, eccetera. E non solo hanno fatto soldi, adesso sono andati come gruppo indie anche qua, neanche a farlo apposta. Anche questi tra i miei preferiti, lo sono veramente cresciuti a pane e soul, rock and roll. Sì. Una sonorità ruvida, proprio il vero groove, proprio ruvida all'inverosimile, bravissimi, in special modo su questo disco. C'ho tante cose loro. Gli ultimi un pochetto sono mosciati obiettivamente, insomma, non c'è più quella verba, vai. Ma comunque mantengono sempre quel sentimento, appunto, quell'anima soul che va al di là del colore della pelle, naturalmente, è qualcosa che appunto sta dentro, come dice la parola stessa, dell'anima, e che loro hanno messo bene sui loro vinili, sui loro dischi. Io comunque voglio aggiungere una cosa: sono amante della modernità, viva i CD, viva i DVD, viva le playlist. Allora, da capo, quindi, Your Touch, questi sono Black Keys, 2006, quindi uno dei primi lavori, forse il migliore. Yeah. mi stai stupendo, perché qui c'è qualcosa di particolare in questo pezzo, vero? L'Hammond. C'è l'Hammond, ma no, no, lo dicevamo prima, nel senso che sì, è un gruppo che faceva tutt'altro. Sì, sì, punto. No, no, no, no. Jason Kulkunis, per esempio, è un batterista che ha suonato con The Burning Brights, che sono un gruppo punk. Gli altri pure, insomma, sono di ambiti che vengono ambiti abbastanza differenti, abbastanza lontani dal soul normalmente, anche se magari poi ci mettono, cioè c'è sempre quella nota di rock and roll, per esempio, nei lavori che fanno con le altre band. Però in questo caso fanno questo disco, credo sia unico, possiamo cercare pure su internet, però credo che The Delta 72 hanno fatto questo disco, appunto, anno 2000, 1999, una roba del genere, anno 2000, disco penso anche venduto abbastanza poco, forse un paio ne hanno fatti. E niente, è una di quelle cose che non riesce a non mandare per radio, perché insomma, malgrado appunto sia datato ormai da più di 15 anni, è più forte di noi. Insomma, un viaggio a ritroso, si ritorna al sol, no? Dopo tanto peregrinare in giro, si ritorna all'anima. E questa è l'ora d'alta, magari possiamo parlare anche non a livello religioso chiaramente, ma insomma del soffio vitale, di quello che c'è dentro la musica, di quello che c'è da esprimere. Sì, sì, senz'altro c'è questa roba qui che viene dall'Africa, che essenzialmente è una energia enorme, che è assolutamente rivoluzionaria, ma non in termini come si dice, di ragionamento, non c'è nessun ragionamento dietro, invece c'è proprio un istinto che ma infatti vuole... Io, guarda, a questo proposito volevo fare due citazioni. Uno è chi di voi ha visto The Commitments, vecchio film di Stephen Frears, il gruppo di questi ragazzi che cominciano a suonare e mettono su un gruppo di rhythm and blues, soul, eccetera eccetera, all'inizio un po' improvvisati, si trovano, suonano in Inghilterra negli anni 80 e fanno incredibilmente successo, per poi sciogliersi immediatamente dopo il successo. Ma c'è la spiegazione che dà uno dei componenti, il manager di questo gruppo, che dice che soul è musica del popolo, è musica che non può venire da classi alte, è musica che può venire soltanto dal basso, appunto, perché sprizza energia. E vedete quanti collegamenti, poi magari una trasmissione che manda tanto punk come può essere questa, in realtà poi va a ricercare proprio nei generi che poi evolvono, cambiano, diventano da proletari, diventano borghesi, per carità, c'è tutto un lavorio intorno ai suoni, alla musica, alle ritmiche, alle classi sociali che ci girano intorno, per carità. Però poi alla fine è qualcosa che appunto poi sintetizzano magari in un'altra frase, una frase diciamo simbolo di chi di voi si ricorda i Redskins, certo, gruppo inglese, certo, anche qui siamo anni, certo, 80-90, certo, che nel loro Nether Washington, North Moscow, insomma loro hanno appartenenza politica ben, esatto, ben precisa, dicono andare avanti come Clash, cantare come le Supremes, e cioè Diana Ross. quando scoccano 8 minuti dopo le mezzo, dopo la mezzanotte, quindi siamo entrati in questo giovedì 9, questo 9 febbraio. Come dice appunto il professor Fefo, la 25esima ora. Quanto mi riguarda, basso i ritmi. Grammatica, bancio questi. Mucchio di domande. E anche loro dei navigatori all'interno del soul. Un brano di qualche anno fa. Con sonorità sicuramente soul, come sentite, con il dubstep bello pesante. It down, sono sempre i Grammatic, Street Bangers volume 2. Funky moderno, senza rinunciare alla tradizione, con la sezione fiati veramente dirompente. Quanto è stato importante poi il funk per quanto riguarda invece poi le basi dell'hip hop? Assolutamente. Stato, penso, è fondamentale proprio. Senza... Assolutamente sì, e diciamo che senza funk questo cut up continuo dei brani sentite sincopato al massimo, non sarebbe potuto anche esistere l'idea di una ritmica, di una metrica, anzi. Forse a nessuno sarebbe venuto in mente di parlare, di fare talk cover su delle basi. In realtà già qualcuno era venuto in mente, per esempio i Last Poets, che già erano un gruppo politico in realtà, appartenente al movimento del Black Power nel fine 60, inizi 70, uno del, insomma, il brano Gil Scott Heron, insomma. Gil Scott Heron, naturalmente, When the Revolution Revolution Cam, praticamente tutta parlata su una base, diciamo, funky dell'epoca, oggi potremmo dire hip hop, no? Insomma, è qualcosa che ricorda, che lo ricorda molto da vicino. I'd like to welcome you all to the meeting today. E qualcosa di bianco lo metto anch'io. I want to write a book about angels. I want angel answers. In realtà questo è un genio assoluto che poi si è fermato da qualche tempo, tranne non ha dato molte tracce di sé negli ultimi tempi. Il signor Beck, all'epoca veramente pischellissimo. No, si è un po' rincoglionito perché pare che sia Bazzi Scientology insieme a John Travolta, magari. Sì, sì. Insomma, John Travolta, Tom Cruise e Beck. Questo invece è Sexy Loves, le leggi del sesso, si sì, stanno delle leggi, crediamo di no. Of all sex laws, let the handcuffs slip off your wrist. I'll let you be my chaperone at the halfway home. I'm a full grown man, but I'm not afraid to cry. E a proposito di Beck, ne approfitto su questo brano perché lui piaceva moltissimo, anzi piaceva tantissimo Beck, è un salutone, sì, se mai sarà all'ascolto, è a Mr. Gibula, amico, fraterno e compagno di tante avventure, tra cui, per chi se lo ricorda, Ugo, sostegno serata, sostegno di Radio Onda Rossa, andata in onda, se così possiamo dire. Comunque ci sono state diverse serate, 4 o 5, purtroppo poi finite per altri motivi. Ne potrebbero uscire pure altre di cose a cui il buon Gibula partecipò insieme a te, insieme al Soglio, la tipo ad esempio Zitoxil. E qui succede qualcosa, praticamente non parte il brano, ma adesso... forse ho sbagliato io a dire qualcosa. Andato. Siamo su ritmi molto molto più leggeri, molto più sbarazzini e ballerini. Ma no, non avevi sbagliato assolutamente a dire niente, era soltanto che guardavo con un occhio schermo. E andando a riesumare Zitoxil, anche la tecnologia si è così un po' impallata. Crediamo proprio di sì. So in time. I was a yeah yeah girl. Se volete ballate, I'm Insomma, per quanto mi riguarda sono quasi ai saluti. Quasi, anche perché mi fai leggere prima di mercoledì 15 febbraio 2017, Radio Onda Rossa presenta Contro ogni gabbia. Dalle ore 20, buffet vegan a sottoscrizione libera, alle 21, antispecismo come questione politica, incontro con Marco Maurizi, filosofo, il tutto allo spazio sociale 100 celle aperte, che sta in via delle Resete 5, ovviamente, manco c'è da dirlo, a 100 celle, www.100celleaperte.org per avere più informazioni. Insomma, Radio Onda Rossa e 100 celle aperte, mercoledì prossimo noi staremo qui a trasmettere, ma tant'è. Dicevamo, era quasi, sono quasi i saluti, perché l'ora è in corso, la 25esima, siamo quasi alla 26esima, e quindi vi lascio questo wake up, cioè svegliatevi, sveglia chi si sveglia a quest'ora, c'è, cioè, anche chi lo fa perché va al lavoro, wake up New York. Chi viaggia, trasportatori di autisti, camionisti, fornai, più ne ha più ne metta, l'altra gente che magari dovrebbe stare a casa invece di andare a lavorare. Wake up everybody, no more. Vi lascio con John Legend, Wake Up, Wake Up. Veramente ciao e grazie della vostra disponibilità. All'ascolto. Across your rooms, from Marvin Gaye to Hathaway, from Nina Simone to Pendergrass, we pay tribute to the legends of the past and introduce the legends of the future. Special big up to my man Johnny Stevens, who shares his passion with us every day. Wake up, New York. Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, oh yeah, yeah. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh yeah. The world won't get no better if we just let it be. Gotta change again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah. Wake up all the builders, time to build a new land. I know we can do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, 'cause they do every time. Yeah. Just let it be. Oh, the world won't get no better just you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's the God hour, the morning I wake up. Just for the breath of life, I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to divide, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters, created in his image so God lived through us. And even in this generation living through computers, only love can reboot us. Come on. Oh, wake up everybody, no more sleeping. Oh, wake up everybody, yeah. I said I need a little help, I can't go alone. Salutiamo e ringraziamo Bubu, che ci ha aiutato a condurre questa 25 o'clock dell'8/9 di febbraio 2017. Ci siamo, eh. Fun SPQR Oi from 80s Fulbrigate Motor City Oi da Torino. Affluente Fondamentalismo Accorda Ascoli Piceno. Tu l'amore Celtic Punk da Pavia. Assedio HC Banale Scontato dalla Tuscia. The Unborn Street Punk Horror dalla Tuscia sempre. Entrata a 5 euro, iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa. Tutto questo fra un po' di settimane. Sabato 4 marzo alle 19. Qua c'è un festival, avete sentito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 band. Organizzate da Torpedos Roma, Radio Onda Rossa e CSOA Snia Viscosa. Ex Snia Viscosa. Stand Your Ground Fest 2017. Ovviamente ci saranno in funzione cucina, birreria e banchetti vari. Detto ciò, possiamo anche dirci a risentirci a mercoledì prossimo. Siamo già anticipati in principio di puntata di cosa si tratterà. Appunto, avremo proprio Torpedos qua negli studi, nonché una vecchia conoscenza, nonché potenziale co-conduttore di questo spazio, ma in realtà non lo è mai stato, se non in qualche singola occasione in tutti questi anni. Quindi il palinsesto di Radio Onda Rossa finisce qui. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Ario. Si riprenderà da domani mattina alle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina e redazionali della mattina del giovedì fino alle 13, quando ci sarà il giornale radio. A seguire lo spazio comunicazione visionaria e la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa e Tracce di Cinema. Tracce di Cinema che presenterà domani Romeo e Giulietta, William Shakespeare's Romeo plus Juliet, USA 1996 di Baz Luhrmann. Ospite sarà Sergio Sozzo. Si prosegue con Attica Blues, oltre la Black Music, e quindi si proseguirà con chi è bravo e brava. A parlare proprio di musica nera, alle 17 la schiena del soul fino alle 18, quando inizia Mezzedes, l'antipasto con i redazionali di Radio Onda Rossa. Alle 20 lo spazio comunicazione e poi il martedì dell'autogestione femminista e lesbica che va in onda il giovedì. Ebbè, è così, c'è dove sta. Alle 23 si chiude tutto con Apostasia, i Cuginetti. Bella Paizzo, bella Fongis. Noi ce ne andiamo così, il saluto più importante a tutte e tutte coloro che ci hanno ascoltato da condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE. Tutti i provvedimenti amministrativi che limitano le libertà di compagni e compagne, delle persone che comunque hanno deciso di non essere compatibili con questo orribile sistema di potere che ci opprime. Questa è Radio Onda Rossa. I'll share our dreams under a communist.